Radio 24 Reportage. A scuola sicuri, ma non troppo. Di Alessandra Schepisi. Ci siamo stati in mezzo al traffico di Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona. T'è capitato, già lo sai da te. Se non ci sei mai stato, te lo dico io com'è. La situazione è pessima perché intorno alle scuole di Roma non viene istituita un'area di rispetto. È un incubo. La mattina. Traffico, inquinamento, stress, c'è qualcosa che non funziona. È una cacciara, una vera bolgia, una pipinara, è una cambogia. È un brulicare di macchine impazzite, si può dire lo racconto da meretta moseride. Ammassate in doppia fila, sopra marciapiedi, sulle strisce pedonali, magari anche con il motore acceso, e bambini che fanno lo slalom tra tubi di scappamento nel frastuono di clacson e motori. È questa la fotografia di moltissime, troppe scuole italiane alle 8 di mattina. Eppure proprio le strade scolastiche dovrebbero essere quelle più protette per consentire agli studenti di poter raggiungere il proprio istituto in sicurezza, magari a piedi o in bici e in autonomia senza l'accompagnamento dei genitori. Le cosiddette school street in molti paesi europei sono soggette già da tempo a specifiche regolamentazioni, come la pedonalizzazione, il traffico limitato, interventi urbani ad hoc. Andiamo invece a vedere cosa accade a Roma, scuola materna ed elementare Giacomo Leopardi, la più grande scuola nel verde della capitale, all'interno dell'immenso parco di Montemario, benefici che però vengono in parte vanificati dalla presenza continua di automobili. Qui in questa scuola si sale in macchina, sostano un sacco di macchine in divieto di fermata e la frustrazione di noi genitori che li portiamo qui proprio per la logistica. Siamo nella riserva di Montemario, siamo dietro l'osservatorio, eppure noi di questo non godiamo. È inaccettabile, davvero, è la salute dei nostri figli, oltre che la sicurezza. La situazione della Leopardi, sicuramente se chiudessero la via per arrivare alla scuola sarebbe meglio. Si creano dei imborghi pazzeschi. I genitori pretendono di arrivare all'ultimo minuto con la macchina, che è impossibile, quindi dovrebbe essere proprio liberato. Roma è caotica, insomma andiamo tutti a mille, però insomma non si può pretendere di parcheggiare e arrivare all'ultimo sulla sala salita. Poi insomma si fa una passeggiata. Ma che te incazzi, ma che te soni, il traffico ci ha rotto i coglioni, ma stiamo tutti in fila buoni buoni, se no buttiamo i nervi nei bidoni. Questa è Roma, stessa cosa accade in altre città, ma vogliamo parlarvi anche di esperienze positive, come quella dell'istituto comprensivo Pertini 88 Don Guanella a Scampia, quartiere di Napoli. Iniziative di sensibilizzazione, di educazione alla mobilità, carpooling per i docenti e bike to school, portate avanti dall'insegnante Renato Casolaro. Tutto è partito dal fatto che la scuola, dove io sono tra l'altro mobility manager della scuola, mi occupo proprio di facilitare gli spostamenti casa scuola, non solo dei ragazzi ma anche dei docenti, no? in modalità sostenibile. Facciamo in modo che anche per esempio i docenti nel raggiungere la scuola viaggiano utilizzando una macchina con più docenti che partono appunto dalla stessa zona di Napoli, dello stesso quartiere. E poi chiaramente con i ragazzi c'è tutta un'attività che la scuola effettua che parte dal discorso della sicurezza stradale. In effetti Scampia è un quartiere periferico della città dove purtroppo i ragazzi non usano il casco, conoscono poco le regole della strada, quindi diciamo noi abbiamo previsto tutta una serie di iniziative volte a sensibilizzare i ragazzi ai temi della sicurezza stradale, dei comportamenti da tenersi in strada, perché partiamo dal presupposto appunto che questi saranno i futuri automobilisti o scooteristi, motociclisti da qui a qualche anno. E da Milano a Monza con l'associazione Massa Marmocchi, che si occupa di accompagnare i bambini a scuola in bici e che fa parte del movimento Strade Scolastiche Sicure. Marco Mazzei. Massa Marmocchi è un gruppo che è nato come gruppo informale, ma da un annetto è un'associazione di volontariato che ha come missione quella di incoraggiare una diffusione della mobilità sostenibile attiva. E abbiamo iniziato a accompagnando insieme ai genitori i bambini a scuola. Concretamente come? Vi date un appuntamento? Ci diamo un appuntamento in un luogo concordato, di solito in un luogo un po' carino, un parco, un giardino. L'appuntamento è alle 8, verso le 8:10 ci muoviamo e raggiungiamo la scuola, di solito attraversando il quartiere in modo visibile, nel senso che uno anche degli obiettivi è far abituare le persone al fatto che sulle strade urbane ci possono essere anche dei bambini in bicicletta e quindi in qualche modo aumentare anche un senso di maggiore attenzione. E lo facciamo con uno stile un po', diciamo, molto improntato all'allegria, perché abbiamo sempre una cassa musicale molto potente. I bambini di solito scelgono le canzoni che vogliono sentire andando a scuola. Diciamo, l'inizio della giornata è una carovana, purtroppo, che adesso ascolta molto trap e altri generi musicali così. Comunque, insomma, questa carovana piuttosto colorata, molto allegra, che si muove nel quartiere e raggiunge la scuola. Facciamo in modo che i bambini e soprattutto i loro genitori si abituino a stare in strada in modo naturale, diciamo consapevole. E da Milano a Monza per raccontarvi un'altra storia, questa volta riguarda ragazzi più grandi. Paolo Pinzuti, direttore editoriale del portale bikeitalia.it. Il progetto nasce dal collegato ambientale del Ministero dell'Ambiente, quindi dal programma di finanziamento delle iniziative Casa Scuola, Casa Lavoro. Insieme a FIAB nazionale abbiamo individuato il comune di Monza come di particolare interesse, in particolare la scuola Mose Bianchi, che è un istituto che raccoglie 1500 studenti molto vicino al centro di Monza, con il quale abbiamo iniziato a fare un programma di avvicinamento ai temi della mobilità sostenibile. E in questo processo ci siamo resi conto che il piazzale antistante la scuola, dove quotidianamente c'erano macchine parcheggiate pressoché ovunque, incluso anche il cancello di ingresso della scuola, ci siamo resi conto che quello non era un parcheggio, ma uno spazio pedonale che veniva occupato abusivamente, quotidianamente. Quindi i ragazzi, quello che hanno fatto è hanno iniziato a chiamare praticamente quotidianamente la polizia municipale per chiedere di intervenire in questa direzione. Il passo successivo è stato quello di mettere dei cartelli di divieto di sosta all'ingresso della scuola, sono fioccate le prime multe. Il prossimo step sarà di dipingere il manto stradale per evidenziare appunto che quello non è un parcheggio ma uno spazio per la socialità, per favorire l'incontro dei ragazzi prima e dopo la scuola e ribadire ancora una volta che uno spazio di qualità, uno spazio che offre spazio alle persone e non alle automobili. Modifiche del codice della strada, revisione dei regolamenti comunali che permettano di avere strade più sicure attraverso la pedonalizzazione o la moderazione del traffico o il cambiamento dell'arredo urbano, è ciò che chiedono una serie di associazioni che fanno parte del movimento Strade Scolastiche. Promotrice Linda Maggiori, blogger, scrittrice, autrice di Vivo Senza Auto, impegnata nella difesa dell'ambiente e promotrice anche della rete nazionale Famiglie Senza Auto. È importante perché per una questione di sicurezza dei bambini, in primo luogo, che appunto davanti alle scuole è uno dei momenti di più grande concentrazione, no? di bambini all'entrata e all'uscita, tanto che negli ultimi mesi ci sono stati molti incidenti davanti alle scuole. E poi anche una questione di salute proprio a livello anche di qualità dell'aria, no? Perché comunque varie ricerche hanno dimostrato che davanti alle scuole c'è una concentrazione di polveri sottili e altri inquinanti estremamente alta. La terza è anche una motivazione pedagogica, cioè i bambini devono essere abituati e incentivati ad andare a scuola a piedi o in bicicletta. Quindi che cosa significa creare delle strade sicure attorno alle scuole? Cioè qual è il raggio, diciamo, che dovrebbe essere considerato? Ogni comune, ogni amministrazione deve valutare un po' la situazione, però noi chiediamo che le strade adiacenti alla scuola, quindi nel raggio di 500 metri possiamo dire, dovrebbero essere pedonalizzate. Se questo non è possibile perché magari ci sono strade in cui circolano residenti eccetera eccetera, allora magari mettere una ZTL, oppure se proprio questo non è possibile una zona 30 con però dei dispositivi atti a rallentare il traffico. Però ecco, la priorità delle azioni dovrebbe essere proprio quella della pedonalizzazione, in modo che i bambini possano uscire tranquillamente e anche magari correre davanti alla scuola. Insomma, ecco, sono tutte azioni che ovviamente una volta erano normali, no? Se pensiamo anche a 50 anni fa, quando si usciva da scuola, i bambini correvano e giocavano anche davanti alla scuola, adesso invece tantissimi spazi sono stati sottratti al gioco dei bambini e alla visibilità. Di strade scolastiche sicure si parla anche nella riforma del codice della strada, ancora ferma in Parlamento dallo scorso luglio. In prospettiva dunque ci saranno limitazioni alla circolazione davanti alle scuole, maggiori sicurezza, maggiori garanzie per pedoni, studenti in primis, ma nell'attesa che si vada avanti, che prosegua l'iter parlamentare, i comuni possono fare qualcosa? Noi stiamo premendo affinché alla base ci sia almeno, ecco, aspettando che venga introdotto nel codice della strada, che almeno i comuni si sensibilizzino e possano, i comuni già possono fare qualcosa. Assolutamente, no? Cioè i comuni possono predisporre zone pedonali, ZTL, zone 3D, ovunque lo ritengono necessario. Noi stiamo facendo proprio questa campagna per chiedere alle scuole, ai genitori e ai comuni appunto di creare queste strade scolastiche. Quindi fondamentalmente chiediamo alle scuole di fare la richiesta al comune, ai comitati di genitori di fare le richieste al comune. Ovviamente se il comune si trova in qualche modo con tante richieste di questo tipo, sarà più propenso a creare un'area di rispetto intorno alla scuola. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.